L'effetto prossimità. Venerdì. Adesso facciamo tutta una trasmissione sfruttando l'effetto di prossimità microfonica. Vi piace questa voce? Amplificata dai bassi portentosi del compressore di Radio 24, siamo pronti a sfondarvi i woofer della macchina. Adesso, se avete i woofer della macchina, non avrete più i woofer. Chiedo asilo. Pronto? Pronto? Manolito. Está bien, Manolito. Ah, stai bene. Sì, sei Manolito, está bien. Está mal, ma está bien. Cioè? Está mal perché Ilia, professor... Ilia, allora senti, Manolito, ascolta una cosa, non puoi telefonarmi con ste lagne, ste lamentele, non chiamare più per favore, cioè lo dici a Giulia, ascoltami Manolito. Sì. Tu di a Julian Assange che qui non c'è niente da fare. Io comincio a pensare che sia una tua iniziativa per liberarti di Assange. Comunque qui posto non ce n'è. Grano non c'è. Capito? Non andiamo neanche bene per essere spiati perché non faccia niente di male. E soprattutto non contiamo un tubo. Quindi Manolito, lascia stare. Cioè chiama qualcun altro. È pieno di asili in Italia. Está bien, signor. Está bien. Ok, allora ci salutiamo. No, signora, aspetta. È l'ambassador. Si è rompito la spalla di Assange. La? E ora io si è rotto le spalle. No, signor. Las staccato palas. Los cojones. Ma vabbè. Si è rotto le palle di Assange. È la base dove sta bien. Eh sì, ma io mi sono rotto le palle di te, vedi com'è. Io non ci posso fare niente. Di all'ambassador, che sembra più una sigaretta. Ambassador. L'ambassador ha detto che Assange può chiedere asilo a vosotros. A noi. E también, signore, è una richiesta ufficiale dell'ambassador. Ma a parte che sbagli l'accento, comunque quale richiesta ufficiale? Se è una richiesta ufficiale allora mi deve chiamare l'ambassador, l'ambasciatore. Murati ambassador, arriva. Allora, passami l'ambasciatore, per favore. Está bien, ambassador, está capa dell'asilo. Está bien? Passamelo. Está bien? No, ma está bien un cavolo, me lo passi l'ambasciatore o no? Está bien, yo soy el ambassador. Ma è la stessa voce di Manolito. Signor Capa, è una caratteristica de los ecuadoreños. Todo hanno la misma voz. Vabbè. E devo fidarmi. E está bien, signor. Sì, ma a me risulta, scusa, sto guardando su internet, a Londra l'Ecuador ha un'ambasciatrice, donna, che si chiama Ana Alba Mora. No, senti Manolito, ma smetti, cioè io non è che basta questi scherzi, io non ho tempo da perdere, adesso metto giù e basta. No, adesso non cominciare. Ti saluto, salutami anche Assange, digli di rilassarsi. Dai, Manolito, dai, per favore. Non è che, scusami, tra l'altro, lì da te non è che c'è anche Giacobbo con gli alieni Maya? Manolito non comprende nada. No, perché ho sentito la tua voce collegandomi con l'iperuranio di Giacomo. Vabbè, niente, non detto. Ciao Manolito. Io vado a bobinare un dossier. Ecco, bravo. Aiuta Wikileaks, vai a sbobinare un dossier. Che tre de bobinare las dossiers. E tu ne tre las dossiers. Vabbè, ciao. Le tre. Che e tre sarà lo stress. E poi come si fa a sbobinare un dossier? Sei già un dossier? Allora, mi senti? Yeah, I hear you. Ok, allora, facciamo che io facciamo il freestyling e tu facciamo il coro. Volenterissimo. Gildo, che noia mortale. Giocare da solo a battaglia navale. Gildo. Gildo. Sono triste e solitario. Gildo. Facciamo che tu eri... Gildo. Il mio amico immaginario? Freestyling. Gildo. Vai con la base. Gildo. Gildo. Sei come un fantasma. Gildo. Nessuno ti vede. Gildo. Ma c'hai la voce con l'asma. Gildo. Gildo, Gildo. Siamo culo e camicia. Gildo, Gildo. Io sicuramente sono la camicia, quindi necessariamente tu devi fare il culo. C'è gente, dai amico. Buongiorno. Buongiorno amico. Buongiorno. Ciao bello. Ciao bello. Senta, io vorrei una pizza. Una pizza? Sì, però avrei una certa urgenza però, perché sono uscito dall'asilo, dovrei rientrare subito. Una pizza. Una pizza. Una pizza piacere, una pizza regina. Pizza regina, non tengo pizza regina, finito tutto amico. No, una pizza ricca, una pizza regina nel senso una pizza fantasia, la vostra specialità. Ah, pizza con i babaroni, amico. No, abbiamo pizza, babaroni. No, ecco, senza peperoni meglio, perché poi quelli non, l'unica cosa che non digerisco sono i peperoni. La pizza dei babaroni e però a parte regaliamo bubazzo, capito? Pizza con babarone e pupazzo. Allora va bene la loro, va bene la pupazzi di... Pupazzo di babarone, amico. No, la pizza senza peperoni, perché quelli mi sono indigesti. Regalo pupazzo, dipende da che film avete. No. Avete i pupazzi del film? Pizza babarone con il pupazzo d'Egitto. Bubazzo d'Egitto di babaroni. Il principe d'Egitto, ma è un film vecchio quello lì. Pizza di babaroni con bubazzo d'Egitto. Beh, pizza se vuoi con prosciutto per carne di maiale, però non piace. Noi non piace, però compri per voi. Insieme a pizza col babarone e il bubazzo. Ecco, allora io prendo pizza. Il peperone abbiamo già chiarito, no? Beberoni? Niente. Regalo, beberoni. Vabbè, regalo e diamo al cane. I peperoni? No, non butti, amico, non butti in terra. No, no, amico. No, non ho buttato niente. No, no, tu fa come mio figlio, amico. Prende pizza e butta e non paga perché papà lavora, no? Vabbè, cosa c'entra? Poi il suo figlio paga la pizza. Sì, amico, non urli. No. Non urli, per favore, carabiniera qua. No, che carabiniera, no. Casino di Madonna, Talia. No, io sono qua l'asilo, può chiedere. Io ragazzi, devo andare, se mi fa sta pizza, com'è? Pizza, babarone con pupazzo. Pizza, facciamo pizza e pupazzo di regalo. Pizza di pizza. Di pizza di carne di maiale che non piace. Non piace. Prosciutto va bene. Prosciutto non piace noi, prosciutto. Ma non piace, ma vendete. Io vedo, c'è scritto lì pizza prosciutto. Pizza prosciutto finito, amico. Finito tutto. E c'è la bresaola. Mi fai ancora con la bresaola? Bresaola finito bresaola, perché non piace tanto bresaola, qua a Milano, anche Italia. Ma che se non piace. Non piace. Allora facciamo un salume a piacere, che avete un salume vostro, il tipico. Kebab? No, kebab, la pizza. Brandy pizza con babarone? No, il peperone, allora. E il babarone rosso. No, con bubazzo verde. No, allora facciamo così, io prendo una pizza, una focaccina liscia, senza peperoni e senza bubazzo, perché non importa, cioè due. Pizza regalo. No. Pizza regalo io, babarone tu paghi, babarone, bubazzo bianco. Ma io non li voglio i peperoni, perché devo pagarli? Mi fa un focaccino? Mi fa una focaccina. Finito, amico, finito tutto, venuto sempre gomista, comprato tutto, buttato in terra, non pagato. Vabbè, ma chi è? Cosa c'entra con il gomista? Ma avete qua? Ehi, amico, non urli, non no, urli. No, non ho dato, cosa c'entra? Non urli, amico. Casino di Madonna qua. Ma no, casino. Madonna, ma è sto bestemmiare, perché devo andare all'asilo? Prendi qualcosa per l'amico, prendi, dai. Prendi una focaccina liscia e poi me ne vado. Adesso io devo andare all'asilo. Prendi tovaglia per l'amico. Fermi a mangiare, prendi tovaglia. No, non posso andare, ho detto che andavo a fare la pipì. Sono uscito. Ragazza, due babaroni, amico, con ragazza. Con ragazza, fermi. Ma che ragazza, io sono da solo. Quindi. Fermi con ragazza, metto in terra tovaglia. No, che terra tovaglia, io devo andare via. Poi non mangio mica per terra. Babaroni per te, no, bubazzo per lei. No, che se mi scoprono poi mi sospendono. Io devo tornare in classe, all'asilo, mi dia questa focaccina. Morte focaccia con bubazze e pavarone per ragazzi. No, brutto in terra tu, metti in terra, seduto tranquillo, io regalo no, a chi io bere. Devo andare via. Allora facciamo così, adesso siccome mi è venuto un attimo di... forse ho preso un colpo di freddo tu, io ah vado. No, tu fa come mio figlio allora. No, il no, figlio non piace butta, non piace butta. No, piace, non piace, non ha che mangiato. Io volevo la pizza regina, qui non pizza regina, finito è tutto finito, so, pizza, pavarone con allora, regalo bubazzo. E io metto in terra tubaia, metti giù con ragazza, allora, tranquillo amico, non preoccupi. No, no, facciamo così, è finito tutto. Allora io vado, io andrei, capito? Allora. No, no, no, amico, dove vai? Tu, no, no. Tornare? Ciao, magari... No, amico, vieni qui un attimo. Che orari fate? Sempre poi? Stesse storie racconta io. Poi... Sempre uguali, sempre con italiano, sempre. Ciao, uguali vado, di mio figlio, Intanto la McDonald's. Da McDonald's intanto regalano i pupazzetti dei film, è usciti ieri. E qui ad Agitto regaliamo bubazzo di babarone, amico. Uguale. E via, adesso vado. Beh, tu uguale mio figlio, amico. Venuto, partito da là, papà, andiamo a Italia. Italia. E porta Italia, io porto Italia per far crescere, lui prende, non paga, non va a scuola, butti in terra, non... Io stufo d'Italia, amico. Ma andato via! Dato via, dove vai? Vieni qua, ma che io stufo di casino, di Madonna, di magazzino, ruba di mangiare, di auto, di butto in terra, macchina, e non ho trovato, e buttato nessuno che guarda. E prendi babarone, porti via, porti di Milano, porti ai negozio chiuso. Prende qualcosa? Non prende qualcosa, come non prende qualcosa? Venuto, prende qualcosa. Prende babarone, non prende. Mio uguale di mio figlio, mi porta di giro, mi butta in terra e non va.